belli, signor Mari. Oi, signorto, buonasera. Amplificati, Zemmucci. Stavo controllando quell'affare lì. Far fatto le 4 una alla volta, no? Ed ci sono riuscito. Con la pazienza si fa tutto. Stavo sempre pensando, per forza, voleva fatto un altro collegamento, e quello non l'avevo visto, e non mi ricordavo di dire la verità, e adesso meno male sono riuscito a trovarla. Penso per perfetto. Solo che a ognuno, quando faccio la conversazione, devo sempre fare gli accordi, capito? Ho capito, sì. E vabbè, così. Si è passata l'acqua, no? L'acqua non è passata lì, no? Magari. No, ce ne fa questa da Sassari, c'ha paura di venire, capito? Tutta parte di sopra, ragazzi. Sta diluviando tutti i giorni e qua siamo in secco. Qua ci vuole soltanto fare lasciare in asciutto. Bisogna andare in chiesa a pregare, a fare acqua qua, però. Deve fare anche un po' qua. Se no non ci andiamo. Salvatore, fatti chi si può. Cosa vuoi fare? Sempre ce l'abbiamo quasi vicino, vintroni, saetti. Nulla da fa. Fatti un'immagine che fa. Ma sempre quelle zone, ragazzi. È un macello, eh. Da proprio su. Fino a Cagliari c'è tutta acqua, ma Sassari ha paura. Non l'ha messa qua, no, ha messo nelle vicinanze, ma qua non ne ha messo. Sassari 2, che ha detto Sassari, ha messo acqua, proprio a Sassari, invece a Sassari l'ha passato su Sessa Eva. Magari a parte di su, via Milano e tutte quelle zone lì, ecco, magari in chi vi la vendeva. Esatto, sì, perché lì era nera l'aria, era proprio nera, ma nera, poi io al suono, Ma non avevi tu verso le 2:30, 3 o 4, com'era? Se ne è tornata in Darido, ne ha messo poco, ma qua manco va rivinda. Vabbè, in questa zona qua non ne ha messo, però l'ha messo in quelle zone lì, l'ha messa. Va, sta andando qua paura, quindi a Sassari l'erba. Sala va, sala poi sala va, sala va. Quindi forse un po', che arrivare, ma con chi vorrei fare, puoi immaginare. Cosa vuoi fare? Purtroppo è così. E andremo sempre così. Si sa che domani non si uscito, anche posso pure domani mi Eva. Speriamo di no, che domani non farà in campagna a trovagliare. Puoi scendere tranquillo, tanto non invade in questa zona. Tutti no. Ma noi non vorremmo che ci avvalore. Lo so che tu stai aspettando l'acqua, anche Bacchisio sta aspettando l'acqua. Vediamo un po' la conoscenza, come fa? Vedrà lì cosa fare. Aspetta, sei di Sassari, aspetta. vabbè. Faremo così, faremo. Diversamente non puoi fare. Diversamente si può fare. Ma chi lo dica della fregata di Agiglia, ma non ne può fare. Purtroppo è così. Vuol dire che noi ce la prenderemo più avanti l'acqua. Ma scesa, io fascista. E chi è? Avanti, avanti. Ah, che se vuoi entrare la porta è aperta. Mi ho capito che sei Franco D'Alghero, io l'avevo già capito. Oggi sei più forte del radio. La radio è forte, Radio 5 è buona. Segnale basso, ma la radio è forte. Ok, ciao Fra. E allora Gian Maria? È stato 7 mesi arrivava qua. Poi effetto cattedrale arrivava Franco. Sono stato in chiesa. Vediamo un po' se c'è ancora Franco. E ha perso le staffe, se ne è andato subito. Deve essere entrato solo per un controllo, boh. E così è sto. Allora è portato stasera il cagnolino a partire. Che andava già regato, era drunenne ancora. Quando stava tornando, stavi ieri in giro, il nuovo locale. L'ho portato a fare un giro, a piedi. Quindi era brutto. Però se vuoi andare alla bicicletta, ti puoi si appresso, no. Così fa dei gaggi a me, tira più fuochietto che io. Ma non la stai utilizzando la bicicletta adesso, no? No, appena comincia a fare appena più di freschetto. Anch'io non ho detto casa. Se te lo fa casa, perché non lo fresca. Se fa appena del freschetto, entro in settimana me la do però. Piano piano, quando comincia a abbassare di più la temperatura. E appena comincia a abbassare, ha cominciato a uscire anche io, sennò le gambe si addormentano di più. Infatti, qua siamo sempre a 30, 31, 32 gradi. 32 gradi siamo, Te lo sto dicendo, poco fa sono entrato in macchina, eravamo a 30 gradi. E io ho a 32 gradi in cosa qua, dentro in questa camera. Vabbè, dentro in camera, prova a metterlo fuori a vedere quanto ti dà. Già varia, non è che c'è caldo, qua c'è caldo. Magari fuori c'è più arietta e rimane più fresco. Se no poco fa che ho spostato la macchina, c'erano 30 gradi. E stamattina in macchina siamo riusciti a piacere, sopra lì siamo andati a Cosa, a capo, no, a LTV, c'è la capizzata. E ti dico che in macchina c'era un bel caldo. Dopo siamo passati alle poste, cazzo, per la fila di un cura, cazzo, però mai è un cura all'ombra, io pensai, un'ora vera. Cazzo, è venerdì che hanno giocato a Dio, era viuto, non vera nessuno. E a che ora? Venerdì scorso, non c'era nessuno, viuto. Ma siamo passati alle poste, l'altro parco, cazzo che mi lo granisco un attimo di abbia per banchini, però non lo manda più a Maghizzani, non me lo fermo, e io mi lo vedo quasi nessuno, cazzo, ma io non però era pieno, cazzo, un'ora via, per carità, meno male che io la maggiore la macchina che la diavo, la intesa, no? C'è la carne, cazzo, che stava la posta a casa, la poi cazzo di carregato, sto con a fare la figliarla. Ma se è da pagare i bollettini, basta andare al tabacchino e le paghi al tabacchino. No, ma ti piace il vaso, i conti, capito? Allora. E infatti, se io mi ce n'ho una sabato da pagare, se vedo che è pieno vado al tabacchino, la pago al tabacchino. Ma si paga di più al tabacchino però. 20 centesimi in più mi pare che sia. Invece paga perché sai io basta di esami che faccio io mi pago che è uno scorpo, capito alle cose. È vero. Da 70 anni in su, quello sì. Ecco, infatti è poco più serietta. A vedere i 15 centesimi che li guarda, Lo so. Io pago palavira, tanti vidriuri, basista che pappagalla, e ferma il tabacchino e appaga il tabacchino. Ma io pure preferisco il fare con i gas, almeno, anche se fai io però non stai a stare a fare la fila, che è un macello, queste qua, per carità. Sono gli altri quartini, non vedo da tutti a capricoli. E là sono qua, sono. Eccoci, sto. E Gianmarì. Eccomi qua. Fatto? Finito, finito. Che differenza c'è dall'altra qua, a questa radio? Che questa è normale, quella là era con l'eco. Ah, questa è normale, vabbè. Vabbè, questo è quello preciso al tuo. Oh, no, è normale. Rubio. L'eco inserito. Su copra c'è l'eco inserito. Ecco perché. Bene, beva. Allora, vediamo un po' se stasera sentiamo a Bacchiglio. Ieri non si è stato fatto sentire. Si vede che era stanco, cazzo, ha lavorato troppo ieri. Non lo so, però sicuro che era qualche festa. C'era gente a casa sua, non è potuto entrare. Oppure l'ha bagnato con un po' di gocce di acqua che ha fatto e l'ha preso il raffreddore. No, ma comunque ieri sera alle 8 meno 10, meno un quarto è entrato. Oh, ma io avevo già chiuso. Non me lo ricordo. Io avevo chiuso, non l'ho sentito ieri per niente. Vabbè, si farà sentire oggi. Se ne ha voglia. Ah, sei in macchina, già si fa sentire. Beh, senz'altro sarà in macchina. Se, anzi, qualche volta con i giorni scorsi ci faceva sentire la sera, prima di partire. E invece, né ieri né oggi, niente da fare, stanco è. Ma già si farà sentire dalla macchina. Vabbè. Bene, ormai già entro. Poi non entrarci nessun altro. Oggi a chi ha sentito? No, oggi non l'ha sentito per niente, l'ha sentito solo poco fa e basta. E tutta la mattina non c'ero, per cui non l'ha sentito per niente. Di solito quando sono a casa da verso mezzogiorno, quell'ora è sempre acceso qua. No, io stamattina non l'ho acceso per niente, no. Ero indaffarato, stavo mettendo a posto qualche cosa. Bisogna andare a fare, dai, quando c'è qualcosa da fare. Allora domani mi si fa la campagna. Sì. A terminare un po' di roba che domani bisogna eliminarla e finito se ne farla poi a settembre per bruciacchiare tutta quella roba che ho tagliato, da fino a poco roba da bruciare, però finché non finisce l'antincendio non possiamo bruciare. Stavo che non vado a, non mi appenso e vado a farmi l'autorizzazione a Monte Oro, ma conviene aspettare, là. E tanto quando cominciano a fare acqua e cose e tutto quanto non ce n'è più bisogno di aspettare l'autorizzazione, tanto sino a quando è? Sino al 15 settembre. L'anno scorso fino in ottobre ho bruciato allora sempre il 7 o l'8 di ottobre che finiva la discesa, così che sono sceso per farmi l'autorizzazione, ma ho detto mi conviene aspettare un altro paio di giorni, cioè, si può bruciacchiare e mi conviene fare così, almeno dicevo sta a fare fila, aspettare, perché fanno il sopralluogo, vengono a fare il sopralluogo, così che perde tempo, dice aspettati 3 o 4 giorni, dice dopo può bruciare senza autorizzazione. E ho fatto così l'anno scorso, non senti con Luca, due ore e mezzo abbiamo bruciato tutto, ma quest'anno ce n'è di più e gliela faccio così, aspettiamo e ciao. Allora conviene aspettare. che loro salgono, guardano il posto com'è e poi ti danno l'autorizzazione, così è. E infatti prima invece no, che facevi la dichiarazione e dopo due o tre giorni ti andava a ritirarlo. Invece adesso no, adesso fai la domanda. Dopo o qua prima di venire a campagna ti chiamano, mica non so, domani o dopodomani veniamo a talora a campagna sua a controllare, cazzo, così fanno adesso. Perché guardano con i sopra le vedete, ci sono i droni in giro controllando se ci sono fuochi e cose. Ecco cosa fanno. Ma ormai è giusto che sia così, va. Vedi, controllino, certo, in certe volte magari ci sono persone che lo guardano a quello che è vicino, c'è roba da che si può bruciare, sa, e si è appena per il vento, il fuoco certe volte va in aria e può causare danno, capisci? Invece in questa maniera, o da me magari no, perché tutto frutti a quella zona, per cui magari roba da bruciare è molto più lontano, però bisogna stare anche attenti anche quando si brucia, perché il cervetto è pericoloso, capito? Lo so, quando c'è vento tira forte e se lo trasporta. Allora bisogna stare le regole e stai tranquillo, capito? A fare così, uno invece sempre tranquillo, certo. Piano piano, se ci mette un'ora, ci mette due ore, se la bruci piano piano e sei tranquillo. Ma facciamo ce n'è, infatti, ancora ce n'è da tagliare. Questi che noi siamo ammucchiati e poi a poco la bruciacchiamo a quel periodo. Infatti, conviene fare così, piano piano, e bruciacchiare dopo, no? Tale giorno. Infatti. Beva. Attento signor Bacchisio, e ancora lui è in campagna indaffarato, ragazzi. Cioè verso le 7:30 magari lui sta cominciando a rientrare. Sarà in affienne, sarà. Ebbene, è stato chi? Sabato non li può fare, ma i lunghi. Allora tocca a casa di la base su guerra. Ma non te ne dici, in FM. E ogni tanto, cioè, ogni tanto li sento. Chi sei, avanti? Ma in AM, siamo in AM, vieni in AM. E a Gian Maris. Ah, c'era un altro, non ho capito chi era. Ah, boh. Io in FM era, però non riuscivo ad ascoltarlo bene. Chissà, era da Ubiera, ma non era... Era da Fura, Sì, era da Furia, era, perché ho visto Lago come andava, si alzava e si abbassava tutto in una volta. Ero io, Giovanni, buonasera, stavo cercando di portarlo lontano da questo canale, invece non mi ha capito. Ah, tu eri là, buonasera. Ecco. Di un dire ha capito l'hai. Inglese. Romè. English. Attention my friend. Parlava inglese però, Ma noi parliamo in sardo anche male pure. E tu fai vedere un ducato. E noi, arrivi due, buonasera. Amico, Claudio. Claudio sei inceppato. Sto facendo cosa? Fai vedere un ducato. Arrivi tu, sei tu. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera comunque. Andemmo. Toscano, Giussinco, inglese, francese. Allora. Interessante che ci sia gente, di davvero non interessa. Ciao attore, buonasera anche a te Sergio Maria. Anda. Riprenda signor Gio Maria. Infatti. Noi parliamo solo in sardo e basta, perlomeno. Io parlo di me, dopo gli altri non lo so. L'inglese Io ho studiato tonsologia. Sì, vabbè, non ha detto che io ti devo parlare in mille lingue, no? E te lasciate che lo parli bene l'italiano da voi. Ce la preghiamo. Posso dire che parlo più francese che l'inglese. E qualche parola gliela capiamo lo stesso. Hai c'ha figlia dura la svolta, però gli altri riesci a capire. Anche noi, anche loro capiscono, ormai siamo diventati un po' internazionali, capito? Lo so. Non si può pretendere fare la lingua perfettamente, cioè. Già ce ne sono, tipo Walter, tipo Marco Scorpio che parlano bene, ma sono in pochi, Infatti siamo in pochi, però magari che adesso io capisco, magari parlarlo è un po' difficile, però molte parole le so, per cui a capire li capisco, non tutto, però qualche cosa si capisce, più del francese, dai. No, il francese io lo capisco meglio, perché io ho fatto francese a scuola e ho continuato facendo francese, quindi inglese non ne ho fatto francese buco. Per cui sempre francese so parlare. Poi ci sono dei parenti che sono in Francia, quando vengono qua e i figli non sanno parlare l'italiano, quindi devi destreggiare a parlare francese, se li vuoi inserire nel discorso, se no non capiscono nulla. E tutto, qual è la lingua che sai completamente? Lusa Saesu, è più bello. Ok, un attimino, ma senti, riprendi già. Lusa Saesu è il dialetto, sì, Giovanni, siamo qua. Lusa Saesu è il dialetto, abbiamo la lingua, l'autore. Capito, mia, la lingua è sarda. La sarda sì, è una lingua, però la sarda è un dialetto. Capito, mia, è lampo. Eugia, che andiamo e andiamo. Ehi, va benissimo. Fatta per nessuno stasera. Io e Gian Maria. E la magia ne entrava a uno, e sei entrato tu, e cosa? Vero che c'è poca voglia, di solito prima entrava un bel po' di gente, c'era una bella ruota e cosa, adesso ma chi se non è entrato? Ma chi se sarà quando sta andando via da campagna, entrerà in macchina, già si fa sentire. Ma la porta viene. Sarà giù in campagna ancora. Come stavo dicendo, ma cambia fonte, non sempre quella c'è, sempre il basso si ascolta. Sempre la tiene bassa l'antenna, perché come per non spostarla quando sta entrando in garage. Ah, ecco, se l'ha presa bassa per non toccare, mando un attimo. Se l'ha messa giusta, no, l'antenna è di 70-80 centimetri, è cosa che lui la tiene bassa per entrare in garage, anche se no si pulsa sempre, o ne rivara. Ah, che come la piega che non si sente bassa per quello. Infatti la piega, ecco perché si sente bassa. Ah, quella antenna devono lavorare in verticale, non devono lavorare bassa. Può non stare sempre a piegarla, allora lascia così. Vabbè, come ho detto lui, però non ti rende, capito? Io addirittura sulla macchina c'avevo una 2 metri di antenna, avevo la Turbo 2001, ma parlavo con tutta la Sardegna, con tutti quanti. Io ce l'ho da 1,15 m, ce l'ho, pensa un po' con la base magnetica. Marco ce n'è tutto, ce l'avevo sabato, mi ce l'avevo. A Cossoine, da Cossoine Marco stava a Nive. E dove te la messa in macchina? In macchina ce l'avevo sul tetto, sono andato a Cossoine a vedere la lupa come stava. E da lì, da Cossoine, mi ascoltavano tutti. Avevo 30 un fusso, mi. Perché tu di Cossoine sì? No, c'ho un amico che mi sta tenendo, la lupa mi sta tenendo. E quindi vado lì ogni sabato, se va bene. e scendo lì a vederla. E come mai? Che lei si è separato? No, è che ho il bianco qua, che dà caccia, quindi quello lo tengo qua e quella là la tengo insieme alle altre lupi. Faccio capire. Perché io ho un cognato che dico suo, non per altro. Non lo so, io... No, è in paese, è dentro in campagna questo. E sarà 2 chilometri dal paese. Verso Porto Maggiore, così? No, è vicino. E linea d'aria sarà un 200-300 metri, linea d'aria. Ti riconosce quando vai? E a voglia. Caspita, gli altri non li faccio uscire perché non mi conoscono molto, però lì quando la apro me ne brinca in tanto. Infatti mi ha graffiato sabato. Ma gli altri sono tutti tuoi cani o no? No, gli altri sono di un amico, sono. C'ha due femmine che la madre, una è la madre della lupa che ho io e l'altra è... c'è un maschio e due femmine. E quanto è vicciata sta lupa, grande? Oh, un anno e 4 mesi. Allora è giovane. E quindi in casa due non te la fa tenere tua moglie, se no si butta fuori a te. No, l'ho tenuto per 2 settimane qua, ma mi ha fatto la gamera a beffa. Uno si butti lì, perché quello lì è calmo, non fa nulla. Ma l'altra ti distruggi tutto. No, è il mio caso, le mie abitudini. Io se riposo dopo pranzo riposo anche lui, non fa casino, non va, è tranquillo. Il mio è tranquillo, solo che guai si apre la porta che non ti conosce. Ah, così è quello che c'ho io, Quello che c'ho io è lo stesso così, è tranquillo, no? Non abbaia, no? Quando esco rimane un po' e poi già si calma. E stai zitta, Lo sai cosa fa il mio? Che ti tira un po' quando ci sono cani e cavoli negli intorni. Mamma, ti strappa le braccia e ti fa correre. No, adesso già si è calmato. Abbiamo sterilizzato quello lì. Quello che è a casa? Quello che è a casa l'ho sterilizzato. La lupa no, ma lui sì. Ma lui si percaccia? Caspita, se no lui da bui comincia a tirarti, vatti, già ti dirà così come te cose, che hanno buttato in giro. Ma a caccia lui? No, non l'ho mai usato a caccia. No, l'ho provato una domenica, l'ho portato insieme a un amico per vedere se era pronto e coso. La te ne fa uscire le pernici e le ha fatte uscire. Vabbè, perché l'istinto ce l'ha, ma con un astro non è che devi segnare più, l'istinto ce l'hanno. Il mio veniva usato, se la guarda che la caccia, c'è l'istinto, c'è un fiuto che è particolare. Che ha trovato 7 litri di vaccia in una settimana, non ti dico altro. Ha trovato 2 in un giorno, addirittura. E se no quando si mette a cercare le lepri. Poi... No, non ve lo dico che, ma subito 30 a raddana se vuole un gabbo. No, si mette 90 che è troppo grosso. Su punta, E mi l'altro giorno a Gurraccia, sotto, camminando piano piano, la pizzicata. Ma la Gurraccia è mala, ma non è che se la fatta al carino di lui. È andata a buttarci la mondezza col cane, no? E lui c'ha un pastore tedesco. Praticamente è andata a buttarci la mondezza, c'era il cane a guinzaglio, ha visto la cornacchia mangiando la mondezza, ha detto prendila, lui è andato per morsicare, la cornacchia si è alzata in volo e si è musa, è andata a un capo di lungare, ha piccato tutto quanto, un altro, mi ha fatto il sangue. No, io sono per riuscire da girarsi. Anche la peccata baccabu, la peccata. Ha avuto 2 culturati e non venderà più. Ai, poveraccio. Sarà contento un attimo che gli hanno mangiato la pancetta a lui. Ha detto a tutti l'ha detto. E io in buona vita, gli hanno qui, gli ho detto che la mia amica ha fatto un furabino in campagna e me l'ha mangiata la curaccia. Ah, è preso bello che se la porta pure. Ma dimmi tu, capi messa che io l'ho detto la mia amica, quella capi messa che è andata a mangiare. Ere curacci si che ne tenevo piago, ma raggiungi. E poco so di cosa vedo me. Ma sai che l'altro giorno l'ho portata dentro questo posto dove c'è un prato all'inglese, chiuso il cancello, il padrone, per farlo correre, no, a testa. Ed era tutto nero, si frusciava tutto in terra, faceva libero, tranquillo. Se tu buttare la riccia a burraccia, si muore, non te lo pure comincia contro di lui, sfidato. Poi cazzo il cane, logicamente si gira. È andato cazzo per morsicare, la burraccia si è attaverato, ha giocato un pezzo di roccio, un cazzo, come se si è abbassato, ha giocato un colpo e si è fuggita. Però dopo non sai cosa faceva, mi sfidava di nuovo, a te le immagini. Sono cattive, sono mala sorte, sono cattive. Ma qua le cornacchie sono quelle che sono nate qua. Sono che se delle cose ti sfidano a cosa, non vogliono che stiano sotto gli alberi. Sì, ma capi ben saendo, scendo una ciappa. Caldo c'è con la parte. Ma io sono dentro casa, già c'è caldo comunque, se io sono dentro casa adesso ancora. Dopo devo scendere a portarci il cane, passa un po' il sole, scendo. Se no prendo troppo caldo, non aggiungo. Vabbè, lui deve scendere per forza, no? Non può stare qua, ma casino. Pioggia, vento, qualsiasi cosa, il cane bisogna portarlo sempre giù. E di là a me, vedi, sì. Scendo 4 volte al giorno io, penso un poco, e vado va 300 metri, no, di più, 500, e vado un giro un anno. Appunto ti dico, lo stesso anche io. Io vado via a Monova, poi salgo tutta la strada che porta, quella strada lunga che porta su al monte, faccio tutta quella strada, scendo via Prati e ritorno via Ores. Io fargli fare una buona camminata, se dopo si tracca Edo, e rimane tutto il tempo nel poggiolo sdraiato, o se ne va qua dentro in camera al fresco. Ma poi sa quelli che vanno a caccia quando si staccano, infatti i cani da caccia sono esagitati, sempre vogliono correre, vogliono fare. Quanto si stacca il cane a caccia, girando e facendo? Sabato quando l'ho portato, mi se ne è andato 30 in un costone di roccia, sia lui che la lupa, non ha regato, un coniglio non ha regato. Lui l'ha preso? Lui l'ha preso lui. E chi da fa, ne ha regato, va a farlo vedere, ma poi l'ha attaccato a Magnassino. Ah, lo te l'hai fatto tu. Più che altro la lupa che se l'ha mangiato, a chi è da chi da, non vi pensate i gusti. Ma la carne cruda, poi le sale crude sono un metagliente, occhio. Alla lupa non c'è cosa che, ogni tanto questo amico gli porta delle ossa belle grosse, gli porta. Sì, quelle grosse fanno bene, ma quelle fine sembrano vetro come tagliano, come le schegge. Le bucano lo stomaco, gli intestini, occhio. No, già ci abituata. E ce l'ha, quando è? 20 giorni fa. Ha preso la volpe, il maschio l'ha presa, girane divisa in quattro, girane divisa. La volpe furba. Fu il marito, ha ciappato un maschio, l'ha fatta vedere prima al padrone, dice mi abbiamo preso la volpe, un trofeo, allora bisogna mangiare in quattro. Sono famati, sono lupi proprio. E gli da 350 grammi di crocchelle al giorno. No, io mangio la pasta senza sale, fetti di pollo, cosce di pollo e crocchette in mezzo, la frutta, li metto e un po' di formaggio. no, no, loro mangiano solo crocchette, gli sta dando. Quando c'è gli dà delle ossa con un pezzo di carne e tutto quanto. Ma le crocchette sono niente, specialmente con caldo. Sì, non mi raggiungi, già si rimangiano lì. Tu devi vedere che tu vuoi buono a mangiarsi lì. L'importante è che non gli manchino l'acqua. E adesso un'altra settimana ce l'ho qua per 9 giorni. Io le crocchette, fino a un certo punto gliele do. Le do con le personal trainer che costano una barca di soldi, però ne do un pugno, ne le metto questa roba da mangiare, se no non ne mangia così da sola. Io gliene metto una scodella e più gli metto della carne in mezzo oppure della pasta, del pane, mischiate gliele do. Anche io faccio così, perché da sola non ne mangia il mio. Invece la lupa ho provato a dargli con della carne in mezzo o della pasta, non te ne mangia così, mangia solo le crocchelle blu. Crocchelle particolari, però se ne sono fatto Gian Maria io. Attenzione Gian Maria, è il verso che sta facendo roba. Io ti deve essere, stiamo tutti ascoltando, non andiamo nessuno di entrare. Tutti all'ascolto. Sono in soggetto, dai, rientro sotto. Ok Gian Maria. E via, è Marco Rattapignano, non è entrato. No, sono da venerdì mi pare, non intendo. E allora la volta buona che ha trovato la femmina. Ha trovato la femmina, ma la femmina di pappagallo. No, la rosa, la rosa. Se avevo capito. Ok, ok, dai, dai, aspetta che andiamo. Beh, lui è un pipistrello, ha detto la femmina per quello, perché lui è un pipistrello. La allora, tappignana vuol dire pipistrello in angherese. Sì. Anche i femmine la discende. Non è che le ma non ha, quindi se le capiteggia non disdegna. Ah, beh. Noi non avevamo dei problemi. No, no, io no. Ma comunque, magari è uscito, non forse è uscito con Antonello, perché di solito quando non entro è perché è uscito con la madre o perché è con Antonello a pulirsi una cosa, se ne escono, ma per cui io non stavo andando più ritrovato indietro. Ah, da venerdì che non lo sento. È da venerdì che non lo sento, questi giorni non è entrato per niente. Vabbè, gli indagano, entra. Sette volte sta facendo roba, sette volte sta facendo roba e praticamente non hai voglia di entrare, però ascolti, capito? Lo fa anche a me a volte, sto facendo roba, ascolto, però non entro. Come ti faccio io? Molte volte mi metto al coso per aggiustarmi qualche cosa e non entro, sto in ascolto e se no dopo non ci riesco più a aggiustarla. Vabbè, quel microfono a posto l'ha messo. Del coso? No, non ho neanche guardato, l'ho messo da una parte, l'ho messo, sto usando questo da tavolo. Non no, sicuramente deve essere l'affare come schiacci, deve essere, o c'è qualche filo che è staccato. Il filo di schiacci. Il bottoncino. Importante. Deve essere quello lì. Forse perché era troppo fermo. Ecco, basta metti un goccio di cioricini, passa tutto. Sì, che non ha giugana. Che non ha giugana, lo voto. Tanto non lo seguo della tenda, va. Ma tu a caccia vai, oppure vai a fare compagnia a qualche amico? Ah, qualche volta mi chiama questo amico. Dice, io ci vieni. Non è sempre. Ah, mi porto il cane appresso. E andiamo. Faccio sentire gli spari e tutto quanto, che l'altra volta che hanno usato il fusile si è assustato. Ma la prima non si spaventa, è abituato. No, questo non era abituato, perché al più bello ce l'aveva mia figlia, ce l'aveva su a Londra. Ah, ecco. No, lui è abituato agli spari, anche perché spara anche anch'io a Capolano, sì, quando lo permetteva a me il sindaco, adesso ha proibito tutto. Eh sì, proibito tutto quanto. Infatti, che se no gli animali poi si spaventano troppo, ce ne sono parecchi che si spaventano. E un anno stavo aspettando mio cognato tra 24 e 25, no, tra 29 e 30, e stavo aspettando a casa che stavamo cenando e non arrivava più, mio cognato c'è il bestiale, come hanno sparato, cazzo, se adesso scappano tutti i vitelli, le vacche, e la missione del bestiale è tutta la nulla, sono scappati lontano in alto. Più si avvicinava più scappava. Pensa un po' quanto si sono assustati. Infatti quello è il brutto. Quando si è in campagna anche bisogna tenerli tutti rinchiusi. Erano chiusi, hanno sfondato tutto scanceto, capito? Erano chiusi, però sono riusciti a sfondare il cancello. E sono stati tre lì per pigliarli tutti. Certo. Io sei afferrato un po' così, ho travagliato un bel pa ciappalli. Erano, rubato. Molti erano. I due, lui e il padre erano. Le erano col trattore, col carrello, li hanno caricati sul carrello, i primi, e poi gli altri sono scappati. Gli altri li hanno caricati sul carrello, col trattore, li hanno portati di nuovo nella stalla, però... Tutti gli altri sono scappati, ce n'erano altri 4 o 5 che sono scappati. Certo, a ciappalli, al coso, e bisogna farli piano piano, bobo. Sì, ce l'hanno fatta mai 3 giorni, l'ultimo l'hanno pescato da poco. Se ne andava in giro, mangiava, faceva, se ne stava in giro, non tornava... cosa dopo, poi l'ha chiamato questo contadino che l'ha visto che stava mangiando, erano di salata di questo contadino che stava mangiando, e sono andati a pigliarlo, stava mangiando la verdura, la lattura. La roba fresca di mia zia, là. E gli ha dovuto ripiantare tutta la lattura che gli ha mangiato, gli ha ripiantata lui, e pensa di rifare, non è, sono animali, non è che... Ma non ha succedato davvero, hanno sfasciato il cancello di legno, immagino. E ma doveva prevederlo lui, queste cose qua, quando si arriva per la vicinanza di Capodanno, Natale, deve tenere rinchiuse. Perché dove in campagna, cosa sì? E anche il campagnolo che ha parlato con l'usina, era spaventato. Perché i cacciatori molte volte non guardano quelli che hanno il bestiame. Si mettono vicino e... Vabbè, era più sicuro. E così. Ha giudicato meglio di tagliare così dalla parte di muro. Sì, ma lì i cacciatori devono stare attenti, anche se bricare i muretti, ti drappare il muro, i chibi, ti drappare dei gomiti, e quando arrivi va a pigliare la macchina, grande bugie, ti tirare. Infatti, non ho già visto questa cosa io. L'ho già vista. A questo qua gli avevo detto rimetti delle pietre a posto, come erano. Io non disegni nulla, no. Cannetturato già ci ha fatto tutti i gommi drappati. E uno l'ha detto. Alla prossima non troverai neanche la macchina. Con la camera ecco. Chi sei? Avanti. Già. Non ti riconosco con questo ecco, sinceramente non mi piace. Guarda se ti piace adesso. Sì, avanti. Antonio, cazzo. Era troppo forte il coso, ciao Antonio. Troppo forte era l'ecco, capito? Non si capiva la voce. Poi non sono abituato a sentirti col checco. A parte che saturo. Adesso si è uscito bene. Ma sta arrivando malissimo, se vi può interessare. Buonasera. Adesso sei migliore. Ciao, Claudio. Ciao. non ti occupo, non lo so. Tu come lo senti, Tore? Sì, lo sento anch'io il cupo. Poco fa stavo uscendo benissimo, però adesso sto uscendo il cupo. Per quello sarà, non lo so. Sarà per quello. Andave. Marco, già sei una licenza fatta in pindì. Certo. Scappare che sei usato, Anto. Ah, adesso il tuo colore ci ha detto. Ho capito. Però è forte come radio, molto forte. Vabbè. Frata Pignola, entratoci. Eia. Giusto, perché non avevo niente da fare. Ciao Claudio. E io mi sto stancando anche del baracchino, proprio me ne sta scendendo. Ti ringraziamo per questo, giusto perché non avevo niente da fare, mi sono dato un po' di retta. Avanti Tore. Cazzo, oggi te usa e quando è venerdì, buono, si è fatto più tindì con chi? Con Antonello. Ma in radio? Boh, e chi l'ha più visto Antonello? E noi stavamo pensando che avessi trovato la femmina. No, là siamo ben lontani. Va bene. Riprendi Claudio. Ehi, dai, ho fatto la doccia. Oh, come faccio? Sono in fretta già. C'avevo un robottino in piscina che lo dovevo staccare. Che aveva finito di pulire. Come sto scendo io questo barracchino? Ma sto scendo a me, cosa ti aiuta? Che avevati le spalle. No, quello già me lavo io con la spazzola. Non conosci il robottino che si mette dentro la piscina, quello fa tutto da solo. No, conosco quello che taglia l'erba, l'ho visto quello lì, però là nella piscina no. Gli attacchi la manichetta, gli attacchi ai bocchettoni. E lui cammina da solo, avanti e indietro, sott'acqua. E pulisce tutto la pavimentazione della piscina. Capito? Poi le foglie di sopra, quelle si attacca all'aspiratore, le porta dentro i bocchettoni e gli ritoglie il coccolino. Perché non vedi foglie cadono? Sta dove è vento, funzionosa. Vabbè, ci vuole manutenzione. Già è bella la piscina, e anche Andrea me l'ha detto. Quando non ha giocato a mare e cose, non mi brutto né nulla, devo sembrare in piscina, sto tranquillo, mi sdraio e sto bene così. E vabbè, quella di Andrea è quelle superficiali gommate che si appoggiano e la riempi d'acqua. Noi stiamo vendendo una piscina di 40.000 euro già, un altro tipo di piscina. Oh via, stanco sono, vabbè. No, ma ho tolto il dacchi che mi stava dando troppo posto. Ho messo l'Aran 48 con l'MMP5 in un angolino, proprio un angolino. Io sto per fare due chiacchiere e basta. Già funziona bene lo stesso. Funziona bene. Come non funziona bene? Ora riprenditela. Se non c'è più problema del cane a portarlo giù, stavo pensando che la deve portare il cane, invece non è di dici problemi. Perché? No, lo tiene fuori? È libero adesso. Oh, 3.500 metri di terreno, sono recintato a prato, a alberi, cose, giardino, oh, è rinato. A volte manco solo per figurati. Quando un bruciato, allora poi un gabbo, l'hai cucato sotto la buona riva. Via da Edo. E così vuole, infatti. Bene così. Uiuia. Marco! Eia, ditemi tutto. Cattauce de Bog Barao, Remi. Già. L'umido si sente. Però svegliato, sicuramente. Stamattina lo stesso, quando siamo usciti, mi ha telefonato dopo tanto Natalino, io ero da Lidl che stavo facendo la spesa, ma non avevo proprio voglia, e se ne è accorto, ho detto ehi, c'ho da fare, ciao. Ma cosa li trova gli amici? Sì, c'eravamo fretta, poi dovevamo pigliare acqua, cosa, e ho tagliato corto, dai. Si dà ridi, bobo. E l'ho sentita anche io stamattina, Natalia. Eia, vabbè, poi lui non si è più messo niente, quindi scelta sua. Beh, ma non avrebbe prestato tu l'apparecchio omologato? Che fine ha fatto il apparecchio? Registrato il break? No, me lo sono giustamente ripreso, perché li presti e la roba rimane mesi, forse anni, capito? Finché non vai a prendertelo non torna la roba. Parlo in generale, e quindi tanto non stavo entrando per paura di controlli, allora me lo sono ripreso giustamente. E poi non presto più niente, nemmeno una vite, manco uno spillo. Vai Gianfranco. Sì, buonasera a tutti. Marco, di là non t'ho più sentito, sei sparito totalmente. No, allora l'ho dovuto disinstallare col programma, perché mi dava l'indicazione di spazio in esaurimento, non potevo aggiornare le normali applicazioni, non c'ho spazio lì. E quando avrò uno smartphone più moderno, più capiente, posso capire, ma lì non devo stare ai minimi termini. E allora sei proprio messo male, ma male. Boh. Mettitelo su un PC, su qualcosa. Boh. Va bene, io sono entrato un po' così, quindi non so chi c'è. Comunque buonasera a tutti. Break. C'è un break, l'hai sentito Marco? Eia. Beh, che accoglienza calorosa, è entrato Gianfranco. Ciao Gianfranco, hai sentito? Avanti il break. Ciao Marco. Ciao Luca, un ben entrato. Non so che sono fatto, non lo conoscendo Luca. Ah, meno. Avanti Gianfranco, che appunto. Una volta che sta allevando il ciocco, vero? Cosa? Mi hanno detto che stai allevando il ciocco. No, già, io caro da fatto, così faccio qualche giorno qua. Altro, quello dell'acciughita lì, vabbè che se piove chi viene al verno, ma se no, fino a poco tempo fa, lì a bancari se ne trovava un bel. Sì, ma molto forte, però ti sento senza problemi. Sì, 8 e mezzo. Volevo chiedere, ma che radio sapeva di quel tipo nuovo di radio? Chiamiamole radio, aspetta che abbasso qua. Ecco. Cosa? Le conoscevi quelle radio, Network Radios? Tu le stavi parlando venerdì con Gianfranco. Ciao Luca, ciao Gianfranco. Allora, te lo spiego a parole mie. Praticamente sono delle radio veicolari, c'è l'aspetto della radio veicolare. Dentro c'è uno smartphone per giunta vecchio. E praticamente tu usi programmi Ecolink, Zello, IRS e altra roba simile, che sarà pure interfacciata con veri ricetrasmettitori, quindi da qualche parte esci proprio in aria, con air, ma stai parlando con un cellulare, caspita. Vabbè, comunque è accattivante, l'idea è accattivante, dai. Allora, quel sistema lì noi l'abbiamo attivato qualche anno fa, io c'avevo TS2000, Marco TS2000, Marco TS2000, avevamo fatto una fase di sperimentazione, ma ti dico che a me non mi ha proprio entusiasmato, io se vuoi parlare in radio parlo col microfono e con la radio, non con il telefonino. Sì, ma io non me la puoi dare con Skype, forse. Ciao Claudio, ben ascoltato, volevo dirti che non ti riconoscevo perché c'è una voce molto cupa, contrariamente a quella che è tu. Ma io non sono a casa, sto usando un baracchino 40 canali con l'MBP5, giusto per fare due chiacchiere, ma sino a quando non mi stufo stiamo goduto a mezza ribelli Murinocchi. Caro Gianfranco, questo è quanto. Ok, e ne approfitto per salutarvi perché è arrivata gente e adesso ci facciamo una birretta che c'ho 7. Ciao Tore, ciao Luca, ciao Gianni, ciao Marco e ciao a tutti. Alle prossime, avanti Tore, riprendi. Ok, ciao, buona birretta. Ok. Si prende la Luca, ciao, buonasera. Luca! Non se la riprende. Gianni! Ehi! Che è arrivato Giandammini, mi sa che vi saluto. Che ne sono? Sono già le 7:15. Ah beh, si danno le 7:30 prima. 7:30, 8:15, rimane ancora un po'. Marco lì, allora, che te ne conta? Ciao Claudio, buon proseguimento, poi ti mando un link di quelle radio casomai. Sì, c'è il microfono, c'è tutto, però vabbè. Dunque il sistema è valido, a parte che loro usano il Colink, l'applicazione Colink, mi pare che ti chiedano addirittura una fotocopia della patente, perché se no lì entrerebbe gente e farebbe danno. Poi usano questa IRS, non ho capito se è roba solo inglese o è l'equivalente del nostro Ecolink, poi c'è un altro programma anche, sempre per parlare su quei posti, ok. Gira gira, ci puoi mettere pure WhatsApp, però WhatsApp sai non è come walkie talkie, li devi registrare, inviare, poi quello se lo deve leggere, non in tempo reale, capito? E già, io non sto andando al mare, non sono andato neanche una volta. Proprio l'estate ci voleva l'imprevisto, ma comunque al mare non ero comunque andato nemmeno prima, proprio, non è a Giugana. Sono uscito dall'ordine di idee di andare al mare, proprio. Nemmeno io sono andato a pescare, sono andato a pescare. Immaginati che metti io tantissimo a pescare, ci andrò a settembre adesso. Penso che a settembre con il calzare ci andrò a pescare. Purtroppo perché questo più c'entra sabbia è un casino. Vabbè, adesso è chiuso comunque, ma non ne approfittiamo. Vero Tore, avanti! Già lo grido. Ne approfittiamo a settembre, guardiamo a vedere se si può più fa. Piano piano, dalla spiaggia. E vediamo se si può fare qualche cosa. Ci vai dove tu a pescare? Sì, caspita, c'ho cane da pesca. Uno ce n'ho da 3,5 metri e uno da 4 metri. A buia. Sì, mi sto mettendo a posto il carrello perché lo devo fargli cosa, la revisione. E quindi non lo tocco sino a fare la revisione. Perché anche il carrello fa revisionato? Deve fare la revisione da che anno? Da giugno. L'hanno introdotta attorno, era dal 2003 che non la facevo. E cosa ti controllo se funzionano le luci, i freni, queste cose qua? Le luci e i freni e basta. E il numero del telaio si controllano. Io vabbè, non per fare qualsiasi centro revisione, quello lì anche al quadrato. Perché nel carrello, ma ascolta, dimmi una cosa, poi c'era quel permesso che c'era per la pesca, l'hanno rinnovato poi. Io ho chiesto alla capitaneria e mi hanno detto, dice che ancora non hanno ricevuto nulla loro, che di tenere quello lì, che vale sino a dicembre quello. Poi c'è scritto anche nel coso, in internet, che non c'è bisogno di rinnovarlo. Anche io sono andato in capitaneria, visto che lavoro a Porto Torre, che ho fatto un salto, perché gli ho consegnato l'acqua l'altra volta. Praticamente mi hanno detto che era valido sino a dicembre, ma a dicembre di 2 anni fa però, e stavano andando dicembre, perché poi dice che avevano sbagliato l'anno, non so che cosa, hanno messo il rinnovo, però hanno sbagliato l'anno, quindi non vale. No, io ci sono andato ultimamente, mi hanno detto, dice che quello vale sino a dicembre di quest'anno, poi si vedrà dal prossimo anno cosa devono fare. Ma non è manco permesso, è un sondaggio che loro fanno per vedere quanta gente c'è che va a pescare, tutto lì. Devono solo sapere quanti sono, che tipo di pesca fanno, eccetera, eccetera. Io l'avevo scaricato da internet, me l'avevo fatto anche a Natalino. L'ho scaricato io e Natalino ce lo siamo scaricato. E praticamente poi loro hanno rinnovato una volta, poi sono andato a rinnovare un'altra volta e mi hanno detto così anche a me. Sì, no, io ho messo pesca con le canne, pesca subacquea, ho messo da Bolentino a Via Brucio, tutto quanto. Io ci sono andato quando un paio di settimane fa, ma la rete dice che ancora non è uscito nulla, e vale fino a dicembre di quest'anno. Poi bisogna vedere con cosa loro vogliono fare. Basta, non è quello che vale fino a dicembre di quest'anno. Sì, no, mi piacerò allora. Avanti a TikTok. Avanti TikTok. Ma dove prendi tra? Oh, c'era anche cosa, con Gianfranco, avanti. Tutti urti sono. No, ci sono, un attimino, ok. Antonello, molla il PMR, vieni qua, forza. Mamma mia, che c'è il PMR, è una cosa più forte di lui. Gianfranco, ci sei ancora? Sì, sono al telefono, se ce la faccio rientro dopo, riprendere. Sì, a pesca poi non so più andato, c'ho quel pezzo di carta straccia che avevo fatto tempo fa, addirittura ho trovato l'originale, il file, l'ho ristampato, ma non ci andrò alla fine, no. Ne ho le scatole piene, anche della pesca proprio, c'è un calo di interessi. Perché poi man mano che si va avanti si perdono tutti gli interessi. Io ho fotografia, pesca, acquirofilia, baracchino, non è un po' che interessi, tutti quanti costosi, animali, insomma un po' tutto. Io alla fine, così è, così va, così è la vita, dai. Dopo un primo momento, dopo l'operazione, no, che sono tornato, che cominciavo a sentirmi il leone, e adesso avevo una fase transitoria, adesso sono tornato nella normalità, capito? E alla fine sto uscendo solo per fare la spesa, per fare commissioni, per andare al medico, ma proprio per diletto, per divertimento non so più scendere. Dove vai a Sassari? Sempre a Platamona, a vedere quei quattro negracci, buttate lì. Gianni, mi sento però un pochettino. Io se la fa poco chiudo, Marco, vabbè dai, se ci siamo qua. Avanti, hola. Avanti. Buonasera, sera. Antonello, tu sei? Eia. Aspetta. Antonello Baracuda, sì. E già sono riuscendo, sì. Stiamo rispondendo, Antonello, buonasera. Campo, buonasera Gianni e buonasera Marco. Qual è quello col display azzurro? L'azzurro, ecco. Eia. È bel apparato, dai. Ben entrato Antonello, come in pizza già. Sta lavorando, sta andando al mare, tutte e due, un po' dell'uno, un po' dell'altro, pure. La verità costano niente mare, e lavorare, diciamo, una via di mezzo, ma più metà della metà. Siamo lì. Eia, vabbè. Periodo strano, ma infatti sono entrato un po' così, sto provando a entrare anche a me già, sono abbastanza demotivato. Ma sempre paranoia sei tu, date una scrollatina addosso, date una scrollata e vivi la vita, vero Antonio? Sei a Malagana, anche se alla fine sono questi solamente problemi lavorativi, poi per il resto sì, siamo di passaggio, dunque bisogna ammortizzare un po' la situazione, anche se ogni tanto in testa ti viene, dici ma porca miseria, non sono mandrone, ma perché cazzo devo andare a pregare il lavoro? A pregare si fa in chiesa, il lavoro è un diritto, tutto lì, noi cosa vuoi fare altro? Ma c'è anche il 446080, lì sono in PMR, c'è anche Claudio. Ehi, ha sentito, c'è Antonello Pomponio. Mi? Dalla, neste punto di più. Sempre basso di radio, Antonello. Non si sa perché. Sinceramente il PMR non piace, la verità, vostri per scoppio la 27. Gianni, come radio questa bene fa, ti ascolti bene, o c'è troppo eco? Gianni, sono entrato a salutarti, ciao. Buonasera, Claudio. Ciao. Sì, comunque Pomponio sta uscendo basso là, di radio, sempre basso. Non deve alzare il volume, va. Fatti dillo. cupo non l'avevo ancora regolato, dai. Va bene. Ciao Baracco, sentiamo, ciao a tutti di nuovo e buon proseguimento di serata. Ciao ciao. Comunque in FM stretta, mi ha detto lui, il cognato gliel'ha programmato in FM stretta e siccome gli altri noi siamo in FM larga, lui risulterà più basso di radio. E vabbè, basta rimetterlo in FM larga. Non ne sa fare, cosa sa fare lui? Programmare una radio, ma per carità. Mia in automatico. Il PMR in LPD si sposta da solo e poi in banda amatoriale in UHF va in FM normale, capito? È in automatico, programmato in automatico, 820H. Vabbè, ma stiamo parlando di una radio, non di un giocato. Va bene ragazzi, dai, divertitevela di nuovo, scusate l'intromissione. Vai Gianni, se ci sei, sono riprendi tuttore. Ora si è sentato, è rientrato, vediamo. E vabbè, anch'io non è che ne abbia tanta voglia di parlare, sono un po'. Te l'ho detto già, a parte fare commissioni, solo commissioni. Da fare aspetta al medico, che vita è questa? Chiare nulla, cinestrane. Non ne voglio prendere, non mi interessa. Vieni qua, c'è sempre da fare, vieni. Oh, ma mi sa Claudio che tu da quando sei in pensione stai lavorando più di quanto eri al lavoro. Io devo fare Marco, devo fare perché questo è il mio covo, la mia vecchiaia, quindi c'è sempre da fare. Caspita, alla fine la pensione, andare in pensione è un lavoro, eh? E non si smette mai allora. Ma infatti è così, si lavora più quando non stai lavorando. Quando sei a casa lavori sempre, c'è un sacco di cose da fare ancora. Ce l'hai, va bene, dai. Sto arrivando, di chi si cade la data di vita, dai. Sentiamo dopo se ci siete, altrimenti alle prossime passo e chiudo, ciao. Ah, ehi, ciao Claudio. Ma dopo è andato se ne. Gianni. Hola. E avanti, buonasera. Sera. Buonasera, grazie a tutto il mondo, la volta a parlare. Io ho l'onore di parlare. Sì, già avuto a zia e Bombolo, ma racconta da oggi. Racconta da oggi, capo, si è stato abbastanza bene. Dai, vabbè, perché se due problemi ho avuto. Aspetta, forse sei da un po' che non mi ascolti. Dunque, non c'hai più l'orecchio. Così, dai, ogni tanto ti viene la voglia di collegarti in 27, dai, già fa bene ogni tanto, dai, meglio che non hai buttato nulla, quando ne hai voglia prendi e accendi. Santiago Radio 5, qui in questo apparato mi sta indicando così, Santiago Radio 5, ma c'era anche Gianni Doppiorum e Marco Condor, Parigi. Sicuro è se, prova a guardare la tangolina. Abate 95, Santiago 9 Radio 5. Ecco, che cosa è stato caro, prima è Santiago 7 e mezzo, adesso sei 9 pieno, la radio è sempre 5, senza nessun disturbo di sottofondo. Ma pure qua tu mi hai riguardato la forte. Ma sei Santiago 8 lì, sto uscendo con 4 watt. Abbastanza. E 4 watt, dai, 4 watt. Tondi modulati, dai. Sì. Già adesso si vuole la carta. Non più tanto. Allora buon proseguimento, dai, è ben risentito. Sì, Condor, morto eccomi qua. Chi c'è? Mi sono allontanato io perché stavo facendo cosa? C'avevo anche gente e mi sono allontanato. Ma chi c'è rientrato? Non lo so, aspetta che chiamiamo. Attenzione, Bacchisio. No, Giovanni, non c'è nessuno, ce ne sono tutti andati. Vabbè. Hanno chiuso, no? C'era Gianni, Doppio Room e Marco Conco. Comunque, buonasera, Barracuda. E poi c'erano lì e sono spariti. Sì, ma avevano detto che dovevano chiudere verso le 7:30. Vabbè, già siamo qua noi. Riprendetela, Luca, sì, così. Barracuda da Ussi, andave. Gianni, sta chiudendo stai, no? Fra un pochino, sì, alle 8 scendo, dai. Tanto. Era al telefono, non l'ho chiamato al telefono, non ho fatto tempo ad avvisarvi, devo rispondere subito. Andave. Riprende la Gianmarì. Aspetta, che salutiamo Antonello, Barracuda, dopo un secolo. Buonasera. No, già ci sono sempre, sono sempre per il radioascolto, non ti preoccupare, la sera già mi fate compagnia. E poi sono così, sempre nel radioascolto, anche frequente, tutto lì. Intanto già mi affaccio, però ci sono sempre, non ti preoccupare, pare. No, perché da parecchio non ti sentivo, infatti è tutto strano, che anche lui ha disertato dalla 27, mentre invece ancora è a CC, fa piacere, d'accordo, ok, riprendi già. Ehi, Antonello ci ascolta sempre, solo che è un po' mandrone entrare. No, mandrone no, sono una faccenda e l'altra, adesso già riprendo di nuovo tranquillamente, era più radioascolto in questo periodo, tutto lì. Ho dato un nuovo acquisto, ho venduto un apparato e mi ha acquistato questo. Oh, ha ceduto il PL, sono praticamente sostenendo il cavo a mano, sono senza PL, si è interrotto, adesso lo sto tenendo a mano, se lo mollo non sento più nessuno. Ma se si andava con io non ho l'hai fatto qua. Oh, mamma mia. Vabbè, dai, vi devo salutare, se no non posso stare con la mano così qua. Canta il mandrone. Vabbè, Marco, ciao, dai. Ci sentiamo, vabbè. Ciao Marco. Ho veduto l'apparato, detto già. Trattato, forse un bel qualche mesetto fatto. Il CRT è 7, simile 9, V6, N. Questo che hai adesso? Questo che sto utilizzando, sì. Posso fare il Superstar, però stessa versione. Ah, è comprato dopo, là. E cosa è venduto? Il Cobra? Assolutamente no, il 140. Ah, ho capito. Pensato di arrivare. Non è benissimo. Oh, già ce ne sono frequente, però non mettendo sempre radioascolto, sinceramente, c'è più propagazione in 27 sotto e sopra che negli altri bande, sinceramente. Proprio quando c'è propagazione in 27 anche in 10 metri c'è propagazione. Poi a Puglia, no, questo copre dai 24 fino ai 30. Tutto programmabile, ho già detto un bel apparato. Mandami la foto. La foto, aspetto, provo perché ogni volta esce male, adesso ci provo, dai, guarda. Esce bene, basta che ci metti il cuore. Avanti Giovanni. Ok, vabbè. Parecchi adesso, guarda. Ma non, a me non mi piace più, mi sto già stancando, magari sto 10 minuti poi mi stanco so anche delle ore magari ascoltato, però non mi fa entrare, capito? Forse la vecchiaia però è per cui non ho più voglia di chiacchierare, capito? Già senz'altro è la vecchiaia. Magari è figlio, dopo c'è la nostalgia perché non ce li hai. Non bisognava mai vendere nulla, io mi tengo tutto a volte al termometro, però quando c'è gente mi fa piacere, ho sempre la passione. Naturalmente ho altre cose da fare più importanti, però se trovo un lasso di tempo per rilassarmi, mi fa sempre piacere. Ma io non è che qualcuno ho venduto, ma non è che grazie li ho ancora, è fatto, non si ne voglia, capito? E c'è sempre, ogni tanto ne accendo uno, ma c'è poca voglia, tutto lì. Adesso largo ai giovani, per cui tu riprendi tu, dai. Torre si è assentato, riprendi tanto. Ma Barracu. E io non mi stavo mandando la foto a Gianni là. E siccome c'è un filippino un po' vecchiotto, dunque le foto non è che stanno perfettamente limpide come i nuovi modelli. Mi sta mandando la foto. E niente di più, ha dato una bella passata d'acqua, è impressionante il paese, è una cosa incredibile, veramente, guarda, allucinante. E poi, minchi, non vedo il sole, c'è di nuovo caldo. Allora erano i tuoni, perché stamattina qua si sentivano i tuoni, ma non ha piovuto. Sicuramente erano la partita, sì, infatti era a spalle, del mio palazzo, quindi risultava verso voi, sì. Acqua, guarda, una cosa impressionante, poi prima di tutto verso l'una, fino ad 1:20, 20 minuti è iniziata a grandinare, ma grandine, impressionante. Poi è stata a piovere con gocce enormi, è stato fatto, guarda, mai visto così tanta acqua in vita mia, impressionante, ha allagato anche mezzo cortile quasi, un vicino, c'è ancora acqua alta 4 dita dall'acqua che ha fatto, impressionante veramente. Stiamo facendo queste bombe d'acqua che poi non portano a niente, perché queste qui rovinano tutto il raccolto e tutto quanto. E cosa vuoi fare? Purtroppo la natura non la comandiamo noi. Non ho visto mai Cagliaritano cosa ha fatto nel Sarcidano, cosa ha combinato a San Nicolo d'Arcidano, ha fatto, ha allagato tutto, un casino ha fatto. Non sai cosa è, siamo in poche parole, città, no? Lo dicono sempre, ormai il clima sta di città qua diventando tropicale, scarica una bella passata d'acqua e poi di nuovo il sole, quello è il problema, non avremo più, diciamo, quei giorni di pioggia giusti, con calma, che faceva anche per giorni, però pioveva tranquillamente senza fare danni. Adesso ogni volta che è pericoloso, veramente pericoloso, è lampi che ne sono scaricati in paese, incredibile, ma è mancata anche 4-5 volte la luce. Poi è pericoloso fare la cosa elettrica, tutto quanto, gli impianti elettrici e tutto, perché se scende qualche fulmine è guai. Ma non so dove è successo che ha preso la barca a vela, il fulmine che si è disintegrato. Sì, sono molto molto pericolosi, specialmente i temporali estivi, sono ancora più brutti, guarda, di quelli invernali, è incredibile. E cosa fa? Ce la prendiamo come viene anche questa, è importante essere vivi. Avanti, chi c'era? Così che ha fatto molta acqua, è grande neppure ha fatto lì. E qua nulla, qua tutta l'asciutto. Quello che ha fatto ieri, nemmeno una povera bagnata a Toledo, si può immaginare. Qua che ci voleva non l'hanno fatto, almeno un goccio. Tutta qua le parti. Da voi fino a Cagliari tutto acqua, tutti i giorni. Sì, scusi Giomarino, sì, è proprio così. Ha caricato solamente qua in paese, ma ti dico che era impressionante. Infatti, lì su Facebook gente di oggi ha messo dei video, ma devi vedere l'acqua. Fiumi, c'era rotta, qua c'era completamente allagata. È così, e infatti perché poi il problema cos'è? Che scarica in zone, scarica e poi sparisce, se ne fa. Dunque siete stati fortunati alla fine. Però dal caldo al freddo la questione non è che vada tanto bene, però no, come andiamo lui, Salvatore evidentemente può fare così e va, arruineggia tutto quanto, arruineggia, cazzo. Vai già. Beh, allora è rovinato così. Se c'è qualche cosa di raccolto nuovo lo rovina di brutto. E cosa vuoi fare? Diciamo che qua abbiamo sentito i tuoni, ma tuoni però. Probabilmente era proprio la zona tua che stava. Poi i lampi sono, io mi ricordo una volta portavo un ciel sereno, questo fulmine, cavolo, ciel sereno ha preso questo ragazzo che stava passeggiando alla spiaggia, c'aveva la catenina, l'ha preso in pieno, c'era morto sull'istante. Io già, devo chiudere che adesso un attimo, dai. Ciao Tore, ci sentiamo, buon proseguimento, salutone in casa, ciao già, riprendi tu, io chiudo. Buon proseguimento, in serata. E poi ci siamo sopra modulati. Ciao Gio Marino. E beh già, ti è arrivata la foto, abbastanza limpida è. Sì, è bello anche quello che c'è sotto l'apparecchio, mi piace. Quello del parecchio base che c'è sotto mi piace molto. Sì, più o meno lo conoscevo quell'apparecchio, Antonio, è bello, sì, è bello, è un bel apparecchio. Però io sono sempre su quelli in base, il cazzo mi piaceva troppo. E quello sì, ah, tu hai visto il Royce, modello 642. No, già funziona anche questo, ogni tanto l'accendo. Questo me l'aveva venduto Capri 2. Capri 2. No, guarda, che dico che veramente è un bel apparato, c'ha un sacco di funzioni incredibili, veramente. E poi giustamente se vuoi è programmabile col computer, no, no, veramente è bello. Adesso sono tutti tecnologici, sono tutti apparecchi nuovi, quelli di un certo valore, si possono programmare. E vabbè, tanto è. Meglio questo che c'è Tomalan, diceva quello. Ti stai ripopolando la stazione, dai. Lo stai aggiornando, diciamo. Ma io, sinceramente, questo entusiasmo un po' l'ho perso. Soldi. Mi sono comprato la carabina, mi sono comprato altre cose, ma sono di Canarato, dai. Quando sono un po' così, mi faccio due tiri con la carabina per rilassarmi. È bella anche quella, una bella passione, no, no, io la verità, ho venduto uno e gli ho preso quest'altro. E poi con l'avanzo che c'era, è uscito giusto giusto una rata che avevo da pagare, dunque alla fine mi ho approfittato, ecco, tutto lì, no, non mi interessava più, ho chiesto, nuovo, è perfettamente nuovo, con l'apparato, è trattato benissimo, e dunque mi ho approfittato in quel senso lì, se no non me ne avrei mai soldi da darsi soldi per acquistarmene un altro, ma la scusa se vendendo quello mi ho preso quest'altro, ho fatto lunghe ricerche, no, veramente, veramente interessante come apparato, ce ne ha di roba, manco un'idea ne hai. Ma l'ha presa a seconda mano o nuovo? No, nuovo, 156 euro. Ah, si esce bene. Ah, non è come molto forte. Ma anche regolato volendo. Anzi, questo dovrebbe essere. Ne ha di roba, dopo anche la regolazione dei vapor, ne ha di roba. E quanti vapor c'hai? Allora, in poche parole, aspetta che ti prendo tutti regolabili, e in poche parole come chi ha il Galaxy Samsung in miniatura, come qualsiasi grandezza normale, no? Gli apparato più altre funzioni, aspetta che te lo dico subito quanto è, allora, sei un secondo, allora, da 0 a 30 in banda laterale, in FM da 2 watt a 40, in AM da 1 watt a 12 watt, tutti regolabili. Che puoi spaziare tu dove vuoi. Sono un'omologazione, vabbè, io di là. Se no, perché che ti piaceva. Vabbè, adesso è impostato per la 27, perché sono questo lavoro dai 28 ai 30, questo qua lavora, però poi lo programmi e ci metti tutti i canali che vuoi alla fine. Adesso è programmato per la 27, con 4 watt adesso, 4 watt e tondi modulati. Prova a modulare. Ah, per vedere la quanto ti arriva, sono 4 watt e tondi così, modulato. Qua sei 9.10. 9.10 con 4 watt. No, già funziona bene. Poi c'è la regolazione di finale per non surriscaldare. E ne ha poca di roba, tutto da regolare. Anche il beep è tutto da regolare in hertz. E ce n'è di roba. Parla ascolto con volume regolabile. Squelch automatico, doppio filtro per i disturbi. E ce n'è. E io come ti sto arrivando di segnare, Antonio, contraccambia, vero? 9.10 Radio 5 mi sta indicando qua. Ah, è buono, dai. Contando che sia stato altre radia. Antonio, da che zona dicono buonasera, eh? Ah, non ho capito. Ho detto con la buonasera, in che zona moduli? Ossi, Ossilandia. Eia, ciao Gianni, l'ho appena acceso e quindi magari sgracchia un pochino. Ciao, sì, no, non sta gracchiando, dai, che sta andando bene. Io sto per andare, ma sto per portare giù il cane, se no non mi decido più, mi sta venendo la macchia, bambù. Non lo gioco manco io. Flavio, come venite? Non lo so, manco io, ci sono un po' stanco, dai, non lo so perché. Vabbè, dai, ti ringrazio, Tino, dai, ci sentiamo, anche a te, a Tomeo. Ci sentiamo, lo ringrazio per l'impressione, ma andiamo a andare, dai, il dovere mi richiama. E io non intendiamo su un buon proseguimento allora. Ciao Gianni, ciao. Ma la porta è andata? No, a portare giù il cane. Va bene, ti saluto, un abbraccio. Antonè, mi contraccambi per cortesia al segnale? Sono 5 watt e mezzo, forse quasi 10 moduati. Paolo, in questa stagione fai 9-10 oscillante, radio super 5. La 9-10 arriva. Dunque, ottimi picchi positivi. Cazzo, era per svegliarlo un po', perché anche io sono come gli altri, mandrone, pigro, ad accendere la radio e a modulare. No, io già ci sono tutte le sere sempre acceso, io a voglia come rientro, sempre acceso, poi metto in scannerizzazione dove c'è un propagatore e ne approfitto, a voglia, no, ci sono sempre. Le altre frequenze però già ci sono sempre, anche in 27, solo sono in BMR, 446080, dunque oggi è un po' assente la 27 perché sono in altre parti, dai, però già in questi giorni c'è ancora una bella propagazione a voglia, già mi sono divertito, dai, poi specialmente con questo tempo già qualcosa in più già c'è. Sì. Anch'io in PNR con la frequenza, non so se riesco a sentirti, prova a parlare. No, io c'ho solamente il ricevitore, PMR non ce l'ho, la verità. Sono i portatilini, avrei provato con quello, solo che sono senza batterie, se no volentieri. Ma sai che provo a cercare, può darsi che ce li abbia, aspetta un secondo, Io sono qua, sto cercando di entrare su internet che mi dà la finestra chiusa. Adesso vediamo, devo verificare le cose. No, niente batterie purtroppo, me le devo acquistare. Per carità ho due brutti e ti dico che da oggi, dal punto in cui mi trovo, arrivo tranquillamente anche a Sassari affacciandomi alla finestra. Ho capito. Va bene, vai. Ora no. Per vedere come arrivavi qua. Sì, c'è gente comunque, dovresti sentirli. Sì. Qui c'è Giulio Dollaro. No, gli ascolto quello IAESU FRG 9006, ricevitore. Sì, conosco. Va bene, come vai, mi ha fatto piacere ascoltarti. Devo risolvere un problemino qua su internet che non riesco a entrare, adesso devo chiamare centro assistenza per verificare cosa è successo. E niente, quindi mi serve un orecchio anche nell'altro apparato. Sei d'accordissimo, dopo se capita l'occasione, insomma in questi giorni mi prendo le batterie e poi se ci si proviamo, dai, può darsi che arrivi tranquillamente anche a oggi, attenzione. Appena è che ho le batterie, se ci sei, facciamo questa prova, dai. Poi dipende anche dalla zona in cui ti trovi, per esempio, va bene Pompugno l'ascolto, infatti mi sentiva anche, Pompugno è Marco Condor, per dire, che si trova un po' più su di Sassari Vecchio, dai. E dunque anche lì arriviamo bene, dipende anche dalla zona in cui ti trovi, comunque appena ho le batterie proviamo. D'accordo Antonio, no io vabbè sono dirti un pochino la zona mia, è periferia della Feroce, quindi è uscita dalla Feroce in periferia, sono un pochino più basso di dove ero prima ero la Feroce e quindi sparava meglio. Va bene, dai, non c'è problema Antonio. Perfetto, dai, poi se capita l'occasione può darsi che arriviamo insieme, dai, tu giustamente avrai un apparato un pochettino più professionale, ti ripeto questi piccoli portatilini, ma ripeto che già sono arrivati tranquillamente da Sassari e io da oggi ho passato alla finestra, d'accordo, dai, buon proseguimento, allora ci sentiamo alle prossime. Non c'è problema, guarda tu pensa che vecchi modulatori frequentavano con un capo, quindi non ha importanza la radio ma l'antenna. Ok, ci sentiamo, Antonè, un abbraccio anche a te, alla prossima. Grazie, buon proseguimento.